Dialogo tredicesimo. Raccontò Abu Burda: ricordo che mio nonno disse, il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, stava insegnando ad un gruppo di persone quando lo udii dire queste parole. Ogni musulmano ha il dovere di far beneficenza. Allora gli chiesero, e se non ha niente da dare? Rispose, lui lavora e guadagna, con ciò che ha guadagnato provvede a se medesimo e fa beneficenza. Allora gli chiesero, e se non trova lavoro? Rispose, aiuta chi gli chiede aiuto. Insistettero, e se non ce la fa? Rispose, si comporta bene e non commette azioni riprovevoli, gli sarà contato come beneficenza.